Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Nuovamente in diretta dopo il GR di Radio Popolare dagli studi di Via Zanardi, Radio Città Fujiko. Oggi siamo poetici e ringrazio Dario che al 333-180-9494 ci ricorda il personaggio protagonista del quiz di oggi. Più che l'amor poté la fame, e del caro Ugolino aveva fame, e quindi sapete bene che fine ha fatto l'alto prelato Ruggeri. A me invece Samantha mi ruba sempre la birra a colazione. Beh, bene, buona giornata Dario, e buona giornata anche in questo last minute al nostro Andrea Utensi di Mattiniero. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno Willy, e buongiorno a tutte e tutti. Sono qui Mattiniero per svegliare un personaggio, un milanese d'adozione, classe 1978. E un bambino. Baffoni, fisico da ciclista, non a caso. Lui è Paolo Pinzuti, grande divulgatore della pratica della bicicletta. Gli diamo il buongiorno. Ha creato. Intanto. Buongiorno Paolo. Intanto buongiorno. Continuo a parlare di lui. Ha creato una rivista, Bike Italy, e poi adesso sta collaborando attivamente con Bikeonomist, che sono uno degli organizzatori di questo evento che si tiene domani, 1 aprile e 2 aprile, presso lo spazio Dumbo, come vogliamo, come lo gli anglofoni saranno contenti. E la fiera del cicloturismo, un appuntamento importante per Bologna, che si sta risvegliando dal torpore invernale con le biciclette. Le strade di Bologna sono tutte piene, e quindi abbiamo chiamato Paolo Pinzuti perché ci parli di questa bellissima manifestazione molto partecipata, a quanto ne so. Buongiorno Paolo, dici tutto. Buongiorno, allora inizio dicendo che i baffi me li sono tagliati, che la rivista si chiama Bike Italia. Sì, insomma, stiamo per iniziare con i lavori per quanto riguarda la fiera del cicloturismo, una 2 giorni dedicata appunto a tutti coloro che vogliono conoscere la prossima destinazione per il proprio viaggio in bicicletta, che magari si vogliono anche semplicemente avvicinare a questo mondo di scoperta del ricreato attraverso le due ruote. Oggi iniziamo in particolare con una prima giornata, c'è un forum, esatto, per i professionisti del settore, quindi metteremo in relazione quelli che saranno gli espositori delle giornate di domani e dopodomani con altri operatori, insomma, per fare rete, perché fare rete è la cosa più importante, no? Il cicloturismo funziona attraverso le reti, che sono le reti di percorsi, le reti di aziende, le reti di operatori e anche le reti di persone che poi si incontrano e pedalando insieme vanno a scoprire il mondo. Un progetto che si è finalizzato con l'intervento della Regione Emilia-Romagna, con la città metropolitana, due assessori, ricordo in particolare Mattia Santori del turismo e Simona Larghetti alla mobilità. E volevo parlare più approfonditamente di questa fiera, dove ci saranno forum, dibattiti, presentazione di libri, poi ci saranno stand di Proloco e di regioni che promuovono questo nuovo turismo ciclistico, giusto Paolo? Sì, allora ci saranno più di 80 espositori, più di 80 territori che presenteranno la propria offerta dicendo venite a pedalare da noi perché siamo pronti per accogliervi, non solamente realtà nazionali ma anche internazionali, penso a Gran Canaria, penso alla Slovenia, alla Dalmazia, alla Spagna, interamente dalla Catalogna a Gran Canaria. E la Turchia, insomma, ci saranno veramente tante rappresentanze, ci sarà un fitto palinsesto di presentazioni, li abbiamo chiamati talks, durante i quali appunto viaggiatori e persone con più o meno esperienza saliranno sul palco per dare consigli, ci saranno workshop di meccanica, ci sarà uno spettacolo di un artista che farà un po' di intrattenimento, si potrà vincere un viaggio a Gran Canaria e dulcis in fondo domani sera ci sarà anche il concerto di Roy Paci offerto dalla Regione Sicilia per appunto concludere in bellezza la prima giornata della fiera del cicloturismo. Direi che è un appuntamento ricco di eventi, e questo del concerto di Roy Paci e il suo gruppo deve essere la ciliegina sulla torta. La regione Sicilia credo che si sia profusa in modo molto generoso. E Bologna, stavo facendo queste valutazioni, oltre al turismo, Bologna adesso ha intrapreso la campagna Bologna 30, che è un primo passo per aumentare la possibilità della città per le piste ciclabili e l'uso della bicicletta per muoversi, e quindi per cercare spazi vicino alle scuole, liberi dalle macchine, insomma un percorso nuovo. Tu che vivi a Milano, come la vedi? Credo che probabilmente Milano è un po' più avanti di Bologna. Cosa ci puoi dire a proposito? Mi dispiace deludervi. Allora, io seguo con molta attenzione, anche da professionista, tutto quanto avviene in giro per l'Italia. Bologna in particolare la seguo con particolare attenzione, perché ho avuto modo di lavorarci diverse volte, e devo dire che Bologna è probabilmente la città più avanzata sui temi della mobilità attiva che c'è in Italia. Il desiderio di diventare Città 30 è stata la prima città metropolitana in Italia a decidere di intraprendere questa strada. Il BC Plan, sia comunale sia metropolitano, è uno dei documenti più avanzati che ci sono nel nostro paese, e anche la rapidità con cui si procede alla realizzazione, insomma, è sicuramente degna di nota. Poi è chiaro che quando si parla di infrastrutture ciclistiche non sembra che si faccia mai abbastanza, sembra che siamo sempre troppo indietro. Però insomma, anche constatando dopo un po' di tempo che sono venuto a Bologna in questi giorni, quello che noto è che insomma le infrastrutture sono state fatte, certo non sono perfette, adesso bisogna prendere la bici e provarle e vedere effettivamente, scoprirne l'utilità. Però insomma direi che siamo sulla giusta strada, rispetto al paragone con Milano, e insomma diciamo che Milano è molto... noi milanesi siamo molto bravi nelle pubbliche relazioni e nel marketing, poi quando si tratta di fare le cose... No. Abbiamo capito, capito. Buon intendito, poche parole. E quindi insomma un appuntamento da non perdere, questo lo consiglio anch'io. Allora sì, appuntamento da non perdere, l'ingresso è gratuito, ricordo a tutti, venite in bici, perché abbiamo, abbiamo realizzato un parcheggio custodito di 500 posti bici. Custodito non significa che non dovete portarvi il lucchetto, perché fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. E quindi insomma evitiamo di congestionare la città, perché ci aspettiamo veramente tante iscrizioni, tante persone, ci sono già iscritte più di 10.000 persone. Quindi evidentemente se ci muoviamo tutti in macchina facciamo un casino ingestibile. Venite in bici, vi aspettiamo, e insomma buona fiera a tutti quanti. Buona pedalata. Buona pedalata per arrivare. Ah, buona pedalata, certo, perché poi anche al ritorno ci sarà una pedalata organizzata dalla Consulta della Bicicletta di Bologna, che accompagnerà i forestieri, diciamo così, alla scoperta poi della Bologna un po' meno nota. Bello. E che si concluderà in stazione centrale. Questo per quanto riguarda il deflusso. Invece stiamo ricevendo informazioni che ci sono diverse carovane, veramente è il caso di chiamarle così, che sono partite da tutta Italia, da Ventimiglia c'è un gruppo per esempio che in bici si è partito e sta venendo verso Bologna. Stanotte è partito un gruppo di pazzi da Milano che si faranno 250 km in un giorno solo per venire alla fiera del cicloturismo. Insomma, voi che siete bolognesi non potete mancare, perché... Direi di no. Posso permettermi una richiesta, chiamiamola un po' così. Allora, sicuramente arrivo dopo e avrete già avuto la possibilità di muovervi, però se non fosse, io trovo che la disponibilità treno-bicicletta sia veramente una grande possibilità per visitare città d'arte, per raggiungere anche posti in maniera importante e comoda. Willy, vogliamo chiedere che però le carrozze per trasporto bicicletta siano più adeguate? Un po' più lunghe? Esatto, ecco. Volevo aggiungere che anche per consumare meno CO2. Ah no, certo. Usando importante, importante. I mezzi pubblici. Sì, sì, ovvio. Per importante intendevo tutte queste cose. Tutte queste cose. Certo. No, per me sarebbe anche una comodità avere però delle carrozze per trasporto biciclette che siano adeguate. Ecco, tutto qui, scusate l'intrusione. Assolutamente, no, no, è assolutamente corretta come decisione. Anche in questo caso l'Emilia Romagna ha già fatto molto da quando ha introdotto i treni Rock e Pop, che sono appunto già che esatto, i regionali che prevedono il trasporto biciclette. Ecco, quindi se a livello regionale qualcosa è stato fatto, si può sicuramente fare di meglio. Quello dove sicuramente si deve fare di meglio è sul trasporto di lunga tratta, cioè perché per quanto riguarda se portare le biciclette sui regionali è consentito, spesso non è un problema, invece sull'alta velocità è assolutamente vietato, contrariamente a quanto avviene nel resto d'Europa, e lì veramente insomma bisogna intervenire, perché è bella la riduzione di CO2, è bella la transizione ecologica, bello tutto, però insomma quelle cose vanno fatte, quindi ci vuole collaborazione anche da parte delle ferrovie. Bene, quindi sarà un weekend, per il primo weekend d'aprile, non è uno scherzo, non è un pesce d'aprile, tutt'altro, no. E quindi allo spazio Dumbo per sabato 1 e domenica 2 dalle 10 alle 18, orario continuato, Ricky e concerto di Roy Paci domenica. Posso rilanciare dicendo che c'è anche un'area per i bambini che abbiamo appositamente previsto, dove ci sarà appunto l'associazione FIAB e l'associazione Eden, che si occuperanno di farli fare un po' di movimento, educazione all'uso del corpo, diciamo così. Non li teniamo lì perché guardare un cartone animato, ma li facciamo muovere, li facciamo scoprire come quanto è bello usare il proprio corpo. Bene, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie Paolo. Mille. Grazie Paolo. A voi. Pizzuti, Fiera del Cicloturismo, spazio Dumbo. Ciao. Da domani. Ciao, ciao. Paolo. Ciao. Grazie Andrea per questo last minute per la giornata di 31 marzo, vigilia di weekend. Tra pochissimo la rubrica del venerdì, il ricco appuntamento con il rotocalco in scena. Due ingressi per voi, Teatro Crebalcore, tre teatri per te, stagione 2023, già ho dato molti indizi, quindi al 333-180-9494 aspetto ovviamente la vostra co-conduzione per andare a teatro. Domani, sabato 1 aprile, invece, ci spostiamo e per la stagione Agora ad Argelato, a Villa Beatrice, la forma dell'incandescenza. Con noi in diretta telefonica a breve, con Anna Amadori. A breve, a presto, a tra poco.